Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mio nonno si fece a piedi, nell'Africa di allora, non so quanti chilometri. Riuscì a racimolare del cibo e dei posti al coperto dove dormire, in villaggi dove insegnava a giocare a carte e a dama. Le carte le aveva con sé, mentre le pedine della dama e la tavola le aveva intagliate lui. La forza di sopravvivenza, il desiderio di tornare a casa ed evidentemente la sua familiarità con gli stenti e la sua mente semplice lo hanno aiutato. Mi chiamo Silvia Nava, abito a Bergamo, dove sono dottore commercialista e, nonostante la non più giovanissima età, anche cultore all'Università di Bergamo con economia aziendale. Caro Matteo, mio nonno Giovanni partecipò alla campagna di Russia. Immune alla propaganda, vi andò fermamente contrario. Trovatosi al fronte in condizioni di equipaggiamento del tutto inappropriate, decise di disobbedire al comando di abbandonare i feriti. Si trovò così a portare a spalle un compagno d'armi per centinaia di chilometri nella steppa russa, con alcune dita dei piedi congelate e tanta tanta fame. Era solito raccontare di aver incontrato a un certo punto sulla strada quella che lui identificava come una fattoria. Deciso a rubare qualcosa da mangiare, entrò nella stalla per trovarvi una sola gallina. Racconta di avere pianto per la disperazione e di essersene andato senza aver avuto il coraggio di toccarla. Ritornato in patria da ammutinato, si unì alla resistenza. Dopo la guerra, per sostenere la famiglia, andò a lavorare come minatore in Francia, partecipando a degli scioperi feroci. Quanta parte di leggenda e quanta di verità ci sia in questa storia non è dato sapere. Finché è stato in vita, però, ogni anno ha ricevuto lettere di gratitudine dall'alpino che gli doveva la vita. Elisa. Questa puntata è dedicata al coraggio dei nostri avi. Ci sono delle categorie, no, di racconti che ci arrivano qui a Voi Siete Qui, @radio24.it. Una è sicuramente i nonni. Una sottocategoria di questa categoria sono le storie di guerra dei nonni. E più o meno le storie di guerra sui nonni raccontano di gesta eroiche, raccontano di personaggi che hanno vissuto un'epoca in cui probabilmente era più richiamata quella particolarità dell'essere umano, il coraggio. Io ho la convinzione che il coraggio in qualche modo si tramandi, sia quasi genetico, no? Che passi da padre in figlio, da madre in figlio o in figlia. Non so perché ho questa convinzione, però anche stamattina io il coraggio di mio nonno, che è stato in guerra, è stato decorato con una medaglia al valore militare, l'ho visto negli occhi di mia mamma questa mattina, e quindi questa convinzione mi si è rafforzata ancora di più. Mio nonno, credo di averlo già raccontato, è stato in Libia, esattamente come il nonno di Silvia, mi pare, di cui vi racconterò a breve la storia, e ha questa, e purtroppo volevo fotografarla ma mi sono dimenticato, appesa in casa di mia nonna c'è ancora questa questa pergamena con attaccata una croce e la spiegazione, il motivo per cui gli è stata data questa medaglia, ed è una cosa tipo: perché nel cuore della battaglia combatteva fino all'estrema distruzione del suo mezzo di combattimento. Lui era un carrista, di quelli che avevano i cannoni, vabbè, insomma, non è importante. L'importante è che oggi si raccontano storie di eroi, storie di nonni che sono stati eroi, perché loro hanno vissuto, ripeto, probabilmente epoche in cui il coraggio doveva essere quantomeno esposto. In questi giorni, tra l'altro, si parla di coraggio e la storia di oggi probabilmente casca proprio giusta. Esempio, Michele, mio nonno è morto a 24 anni per dare una forma all'Italia. Loredana, nei racconti di guerra, mio nonno è tornato a piedi dall'Albania, dove era prigioniero, fino al nostro paesino in provincia di Treviso. Francesco, la nonna si è finta morta ed è rimasta distesa in campo con suo figlio, cioè mio zio, appena nato, in braccio, con una pallottola nella schiena. Luca, parlare apertamente di libertà e antifascismo ad una turista tedesca che era una spia. Mio nonno fece questo, lo portarono in carcere. E ancora, Lidia. Lidia è scritto con anche dal cognome, credo sia di un paese dell'est, forse del Montenegro, perché dice: premetto che mio nonno materno è morto quando avevo solo 3 anni e che purtroppo di lui non mi ricordo quasi nulla. Non so perché, ma sulla sua vita c'è sempre stato un velo di mistero. Solo ultimamente ho scoperto che era uno dei principali organizzatori della rivoluzione contro contro i fascisti in Montenegro nel 1945 e che ha avuto tutte le più alte onorificenze dello Stato. È stato chiuso e torturato in un campo di concentramento, la cosa ha influenzato la sua salute fino alla fine della sua vita, che ha avuto i funerali di Stato. Wow, wow. 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it. Tutti o quasi abbiamo avuto un nonno eroe, tutti o quasi hanno avuto un nonno che ha fatto delle gesta come queste. Mio nonno paterno, Giuseppe, classe 1870, ha partecipato alla guerra di Abissinia. Durante la battaglia di Amba Alagi fu ferito gravemente da una lancia abissina. Dopo la battaglia, al momento della raccolta dei pochi sopravvissuti, mio nonno non c'era più. In quell'inferno mio nonno fu visto mortalmente ferito da un altro commilitone e di lui non si seppe più nulla. Giuseppe fu dichiarato morto e mia nonna vedova. Solo che mentre in Italia si piangeva la sua scomparsa, lui stava lottando per rimanere in vita e per tornare a casa. Fu raccolto dalla popolazione locale, curato con medicamenti naturali e nonostante la gravità della ferita, riuscì a sopravvivere. La tempra delle persone una volta evidentemente era diversa. Erano già abituati a casa, in Italia, a combattere tutti i giorni con la fatica e gli stenti. Questo, credo, abbia contribuito alla sua sopravvivenza. Dal villaggio dove era stato curato, cominciò così il suo avventuroso viaggio a piedi verso Massawa, per ritrovare un contatto con gli italiani. Di lui ho soltanto una foto, di quelle vecchie foto che si usavano fatte dal fotografo in posa. Aveva una corporatura massiccia e te lo puoi immaginare come un uomo semplice di quei tempi, per cui con questo vestito della festa, che si capiva che era della festa da anni. Mio nonno si fece a piedi nell'Africa di allora non so quanti chilometri. Riuscì a raccimolare del cibo e dei posti al coperto dove dormire, in villaggi dove insegnava a giocare a carte e a dama. Le carte le aveva con sé, mentre le pedine della dama e la tavola le aveva intagliate lui. Quando si è ripresentato a casa dopo la dichiarazione di morte presunta, potete immaginarvi la reazione di mia nonna. Giuseppe non era certo in condizioni fisiche ottimali, ma con un po' di cure riuscì a rimettersi abbastanza in sesto per riprendere la sua vita di sempre. Da allora nacquero 7 figli, fra i quali nel 1921 mio padre. Mio nonno non ebbe mai più una buona salute, anche se tornò quasi subito al lavoro. Cominciò a fare il fuochista in una delle tante fabbriche che nella nostra provincia avevano aperto degli industriali svizzeri. Visse fino al 1932, in tempo per raccontare le sue avventure a mio padre, ancora bambino. Prima di entrare in ospedale, diede a mio padre l'unica cosa che possedeva, il suo orologio d'argento a cipolla. Funziona ancora oggi. È su una mensola a casa di mia nonna, ora che anche mio padre è scomparso. È un orologio di quelli che si mettevano nella tasca. La cassa è semplice, questo grosso pomolo sopra zigrinato, un po' panciuto, e poi col grande occhiello dove si infilava poi la catena, perché mio nonno lo teneva nel taschino, con il quadrante bianco, non i numeri romani, ma erano i numeri arabi. In ospedale mio nonno vuole essere accompagnato da mio padre, unico figlio maschio, e per la prima e unica volta in vita sua lo prese per mano. Ogni volta che mio padre ci raccontava questa storia non riusciva a contenere la commozione. Di lì a pochi giorni Giuseppe morì e anni dopo, durante la Seconda Guerra Mondiale, mio padre, alpino della Monte Rosa, fu preso prigioniero dai tedeschi in Montenegro. Nel campo di concentramento dove si trovava intagliò dai pomoli dei letti degli scacchi. Finita la guerra, divenne direttore tecnico di una grossa società che progettava e costruiva oleodotti e gasdotti in tutto il mondo. Negli anni 70 la società prese delle commesse in Etiopia. E allora lì mio padre, una volta sul posto, volle visitare il luogo della battaglia dove suo padre fu ferito. Sono passati 140 anni da allora e oggi racconto questa storia. Perché lottare per la vita, non lasciare mai posto alla disperazione, stare dalla parte delle cose semplici, così come non cedere alla fatica e ai dolori, serve per lasciarci alle spalle un mondo migliore, con dentro gente migliore. Anche io non ho ricevuto grandi eredità materiali da mio padre, come il mio dal suo, ma dentro di me ho lucida la sensazione della mano di mio padre che stringe la mia, con la stessa forza e la stessa speranza di quella di mio nonno. Spero di aver stretto un po' anche la vostra. 'Cause he gets up in the morning, then he goes to work at 9, then he comes back home at 5:30, gets the same train every time, 'cause his world is guarantee it never fails. And he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And his mother goes to meetings while his father pulls the main, and she stirs the tea with counselors while discussing foreign trade. And she passes looks as well as bills at every suave young man. And he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And he likes his own backyard, and he likes his fags the best, 'cause he's better than the rest, and his own sweat smells the best. And he hopes to grab his father's boot when fate passes on, 'cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, la storia che mi ha raccontato Silvia, che ci ha raccontato Silvia, mi ha fatto venire in mente un'altra storia che ho sentito qualche tempo fa. Si parlava della vita incredibile di Amedeo Guillet, il Lawrence d'Arabia italiano. Amedeo Guillet era nato da una famiglia nobile nel 1909, il 7 febbraio del 1909. Guillet si unì al Regio Esercito Italiano nel 1931. Nel 1936 doveva partecipare con la squadra di equitazione italiana alle Olimpiadi di Berlino, ma l'inizio proprio della campagna d'Abissinia glielo impedì. Durante la battaglia di Sela Clacla venne ferito gravemente, ma riuscì a sopravvivere e venne decorato da Italo Balbo in persona. Poi nel 1937 partecipò alla guerra civile spagnola, dove ottenne il grado di tenente. Instancabile, subito dopo il suo rientro in Italia fu mandato in Etiopia al comando del gruppo Bande Amhara, 1700 uomini di origine etiope, eritrea e yemenita, tutti inquadrati da ufficiali italiani. Sopravvissuto a moltissime battaglie, tutte combattute a cavallo, si guadagnò la medaglia d'argento al valore militare e dai suoi uomini, che lo credevano immortale, si guadagnò il soprannome di Comandante Diavolo. Mentre all'epoca nei circoli militari si raccontavano le sue gesta, Guillet si distingueva da tutti trattando allo stesso modo tutti i suoi soldati, senza fare differenze religiose o etniche. Il 21 gennaio del 41 poi partecipò alla terribile battaglia di Agordat. Per fermare l'esercito anglo-indiano perse 800 dei suoi uomini. Sempre nel 41, dopo la perdita da parte dell'esercito italiano di Asmara, il comandante Diavolo si spoglia della divisa italiana e dopo aver chiamato a sé un esercito di indigeni fedelissimi iniziò una lunga battaglia personale di 8 mesi contro l'esercito inglese. La sua fama da lì crebbe a dismisura, ma nell'ottobre del 1941, dopo mille stenti, Guillet fu costretto a darsi la macchia. Dopo aver assunto la falsa identità di Ahmed Abdallah Arredai, si infiltrò a Massawa, dove gli abitanti lo aiutarono a nascondersi. Lì imparò l'arabo, studiò il Corano e continuò a sfuggire agli inglesi che, pur avendo messo su di lui una taglia di oltre 1000 sterline d'oro, non riuscirono a cavare un ragno dal buco. Il suo scopo era quello di tornare in Italia, e ci riuscì solo nel 1943, fingendosi un militare impazzito e imbarcandosi su una nave della Croce Rossa. Una volta tornato fu promosso maggiore per meriti di guerra e chiese subito di tornare nel Corno d'Africa per riprendere la sua battaglia contro gli inglesi. Nel 1947, pur rifiutando i trattamenti d'onore che gli erano stati offerti, cominciò una lunga carriera diplomatica, che lo vide al lavoro in Egitto, Marocco, Yemen e India. Guillet si è spento a 101 anni, il 16 giugno del 2010. Sitting down here, fallout shelter, paint my walls twice a week. Sitting down here, fallout shelter, think about the slaves long time ago. 10 million slaves across the ocean, they had shackles on their legs. 10 million slaves across the ocean, they had shackles on their legs. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Sun goes out, you'll be standing, you'll be standing by yourself. Sun goes out, you'll be standing, you'll be standing by yourself. 10 million slaves across the ocean, they had shackles on their legs. 10 million slaves across the ocean, they had shackles on their legs. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Nonno Emilio, liberato a Berlino, si è fatto Berlino-Vienna a piedi in compagnia di altri disperati, passando per la Cecoslovacchia. Il fratello di mio nonno, il redentista, è stato decorato con la medaglia d'argento sul San Michele, Grande Guerra. Chiara, mio nonno durante la Grande Guerra era in prima linea, ma non sparava, suonava la carica con la tromba, un sopravvissuto, eroe, Francesco. Ma chi erano? I bersaglieri suonano la tromba, non solo i bersaglieri. Forse tutti hanno uno che suona la tromba e non tiene armi in mano, tra l'altro, c'ha solo la tromba. Mi sembra di capire. E non lo so. E beh, come fa? Sta di fianco a quelli che sparano. Cioè, sta dietro a quelli che sparano. O sta davanti a quelli. Che poi, quando avevo letto un'altra storia di un soldato che dava la carica, e mi viene sempre in mente la scena iniziale di Hollywood Party. Avete presente, in cui c'è Peter Sellers che fa una comparsa di un film e suona la tromba e deve morire, gli sparano e non muore mai. Continua a suonare questa tromba fino alla fine. Vabbè, è appena prima di quando fa esplodere il fortino accidentalmente legandosi la scarpa. 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radio24.it. Abbiamo però la storia viva che abbiamo sentito da parte di Silvia, del nonno Giuseppe, e quindi sentiamo immediatamente Silvia. Pronto, Silvia? Pronto. Ciao, come stai? Sono emozionata. Sei un po' emozionata? Lo sento, però adesso sistemiamo le cose. Dove sei? Sei al lavoro, Silvio, o sei a casa? No, sono venuta a casa per essere più tranquilla, perché ci tenevo. Perché al lavoro magari c'è qualcuno che ti ascolta, è sempre un po' imbarazzante. Ma più che altro sono un po' di rumori, magari un po' di disturbo. Senti, tu sei dottore commercialista, quindi fai... Sì. No, come si chiama? Cosa i commercialisti fanno? Facciamo il passacarte. Come? Passacarte dell'Agenzia delle Entrate. Però sei anche cultore della materia. Sì, da qualche anno faccio parte degli arredi dell'Università di Bergamo. Non ne va bene una, però, Silvia. Allora, è dottore commercialista, non va bene. È il cultore della materia, nemmeno. Che cosa, in che materia, scusami? Economia aziendale. Quindi sei un assistente, fai lezione e interroghi. Interrogo, sì, aiuto i docenti di cui ho l'onore di essere cultrice della materia. Sì, dimmi la tua domanda forte che fai sempre all'esame. A un certo punto non sai cosa chiedere, cosa chiedi? Dimmi quello che vuoi. Ah, ok, vabbè, così è un po' facile, però. Senti, Silvia, tu, io sono molto incuriosito da questo orologio a cipolla che è passato di mano in mano un po' alla Pulp Fiction, immagino, e ho visto, possibile che io abbia visto la foto sul tuo profilo, certo, Facebook? Sì, è proprio sì, quello, giusto? È quello, l'ho in mano in questo momento. Ah, perché a casa, non è a casa di tua mamma, è a casa sono tua. Sono andata a prenderlo. Ah, senti, me lo descrivi esattamente come... Allora, non so se si sente il ticchettio perché funziona ancora. Guarda, prova ad avvicinarlo molto alla cornetta. Si sente? Sì, guarda, qualcosa, cioè, ci piace immaginare che si sia sentito, diciamo. Come è fatto? Beh, un orologio a cipolla più o meno abbiamo idea di come è fatto. Cioè... Sì, innanzitutto l'orologio a cipolla sta nel palmo di una mano, non è piccolissimo, è grandezza media, non è prezioso, comunque la cassa è d'argento e ha questi piccoli ricambi molto semplici. Perché arriva esattamente da dove, scusami? Dunque, dove l'abbia acquistato mio nonno non lo so. Comunque è un vedette antimagnetic. Stai leggendo quello che c'è scritto dietro, giusto? Sì, sto leggendo quello che c'è scritto dietro ed è semplicissimo, è d'argento con questo quadrante bianco. Un po' massacrato perché un po' di botte di averle prese. Lo immagino. Senti, oltre al racconto di tuo nonno, perché tu tuo nonno di fatto non l'hai conosciuto? No, l'ho conosciuto attraverso i racconti di mio papà e delle zie. E qual è l'aspetto più forte che ti rimane in mente di tuo nonno? Le geste eroiche o c'è una particolare umanità? Forse il racconto che fai del tenere per mano il tuo papà, probabilmente. Sì. Allora, quello che mi è passato più forte è stata questa personalità silenziosa, perché insomma, perché bergamaschi. Certo, lo zoccolo duro degli ascoltatori di Voi Siete Qui di Bergamo. Quindi insomma, questo aspetto di umanità silenziosa che, guarda, devo dire, è un tratto comune anche un po' dalle mie parti, nel senso che pure i piemontesi hanno un po' quella cosa lì. Purtroppo, Silvia, come vedrai dal tuo orologio a cipolla, io ti devo salutare. Perché ti ringrazio. Cominciamo a rilassarmi. Lo sentivo, però senti, ti ringrazio comunque per il tuo racconto e per le chiacchiere che abbiamo fatto. Una cosa voglio dire, la ringrazio voi, ringrazio te per la sensibilità e l'emozione che ho sentito quando raccontavi dei tuoi familiari. E tutta la redazione, siete splendidi. Grazie mille Silvia. Ciao, a presto. Mi scrivono tra l'altro al 349-238-6666 che mio nonno era, credo, artigliere. L'illustrazione di oggi l'ha disegnata Laura Manicardi ed è tutta nera. C'è solo un tratto bianco che sta intorno alla pedina a una pedina da scacchi. Non saprei qual è, forse il re, forse la regina, forse il fante, non lo so perché non gioca a scacchi, è una pedina da scacchi, anch'essa nera, che imbraccia un fucile. Le illustrazioni le trovate sempre sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui, trovate anche i podcast se volete riascoltarli, e altrimenti fate l'abbonamento ad iTunes gratuitamente, tutte le ultime 5 puntate. Qualcuno mi ha scritto: perché dici sempre solo dei podcast sul sito su iTunes? Ci sono le application per iPhone e iPad. Quelle però non le dico per un semplice motivo, perché uno che ha l'iPhone o l'iPad è già un po' uno smanettone e quindi le trova da solo. Invece uno che non sa nemmeno cos'è un podcast, oppure ha lontanamente l'idea di qualcosa attraverso cui può riascoltare una puntata, se gliela spiego un po' di più, la va a cercare. Anche le nonne, non solo i nonni. Serena: mia nonna nascose un tedesco ferito in casa per svariati mesi, curandolo mentre quello che sarebbe diventato suo marito era prigioniero in Libia. Unico nutrimento: bucce di banana per 7 anni, arrivando a pesare al momento della liberazione 30 kg. Ce ne sono altri due simili a questi. Mio nonno guerriero, si chiamava davvero così, fu deportato a Stoccarda come disertore dopo l'8 settembre. Conserviamo ancora i documenti, ormai pallido, il cucchiaio e la gavetta. Incredibilmente riuscì a sopravvivere alle indicibili violenze. Fu liberato dai russi nel 45. Poi ancora, eccolo qua, mio nonno percorse a piedi nel 44 la distanza che separa Francoforte dalla frontiera svizzera. Al suo ritorno a casa, solo il cane fu in grado di riconoscerlo. E qui c'è Argo, Ulisse e tutti gli altri. Il suo aspetto era talmente mutato che nemmeno mia nonna seppe riconoscere i lineamenti del marito in quel tetro forestiero che aveva oscurato la soglia della sua casa. Riccardo da Como, 349-238-6666, oppure Voi Siete Qui, @radio24.it. Le storie delle geste eroiche di vostro nonno. È arrivata una mail qualche tempo fa, quindi in tempi non sospetti, perché era il 23 novembre del 2011, che era una mail che portava con sé una storia. A questo proposito vi chiedo di avere pazienza, perché appunto le leggiamo tutte le mail, le leggiamo tutti i racconti, semplicemente c'è, diciamo, una coda e man mano le smaltiamo. Ciao Matteo, ti scrivo da un'anonima camera d'albergo, albergo per uomini d'affari, alberghi tristi perché poco frequentati da famiglie, dove non si sentono risate, dove tutti parlano a bassa voce perché qui siamo tutti per affari. Anche io sono qui per lavoro, ma approfitto di questa solitudine per raccontarti un pezzo della mia recente vita. Svuotando la cantina della mia casa romana, sui cui muri soffre la lapide di mio nonno, ho ritrovato le sue lettere, indirizzate a mia nonna, dal carcere di Regina Coeli, prima di essere fucilato. Poi ho trovato anche la corrispondenza dei miei nonni, dal loro fidanzamento al matrimonio e poi fino all'epilogo nel 44. Allora ho ricostruito la loro storia attraverso le loro parole. E questo è un pezzo di quella storia. Raffaele Zicconi, mio nonno. aveva nel 1944 33 anni. Era pervaso dal mito del superuomo, dalla voglia di trovare la libertà dal regime. Era forte, forte dello scudo di immortalità che la giovinezza ti concede. Mio nonno aveva una moglie, Esther, un figlio, Renzo, e, ma lui non lo saprà mai, una figlia, che di lì a poco sarebbe nata. Quei dolori di mia nonna, quei non identificati disturbi fisici, nei primi mesi non facevano presupporre una gravidanza. Mio nonno morì non sapendo che la moglie non stava male, era in attesa di una bambina. Raffaele Zicconi dovette lasciare la grande casa di Piazza Ledro 7, dove viveva con la moglie, il figlio, i suoceri, perché era troppo rischioso per tutti nascondere lì la famiglia di ebrei che salvò dal martirio. Prese casa in affitto e si trasferì con la sua famiglia e con la famiglia di ebrei da nascondere. Il 7 febbraio 1944 Raffaele Zicconi si apprestava a compiere un atto di sabotaggio ai pali post-telegrafonici, ma venne tradito da un sedicente compagno. Mio nonno quella notte venne consegnato all'SS e con lui il suo caro amico Luigi Pierantoni. Dal 7 febbraio al 24 di febbraio del 1944 mio nonno venne torturato e seviziato nel famoso carcere di via Tasso 145. Dopo 17 terribili giorni venne incarcerato a Regina Coeli. Mio nonno ne parla come di un albergo di lusso dopo essere uscito dall'esperienza di via Tasso. Nelle sue lettere non traspare il minimo presagio di come sarebbe andata a finire. Anzi, in quei tristi giorni c'era ancora la voglia di fare progetti. Il 23 di marzo del 1944, Bentivegna e Capponi sono a capo della cellula che decide di sterminare la brigata Bozen, composta da italiani altoatesini. Il giorno dopo, Raffaele Zicconi e con lui altri 334 eroi vennero avviati alle fosse ardeatine. Il ricordo di quelle vittime trucidate è rimasta una data, il 24 marzo, e un luogo, le cave di Pozzolana di via Ardeatina. I will be king, and you will be queen, though nothing will drive them away. We can beat them, and just for one day. And you can't be mean, and I'll drink all the time, 'cause we're lovers, and that is a fact. Yes, we're lovers, and that is that. Though nothing will keep us together, we could steal time just for one day. We can be heroes forever and ever. La mia bisnonna ha nascosto il presidente Sandro Pertini quando era fuggita dai tedeschi. Stava anche citata, è stata anche citata su un giornale, Christian da Modena. Ce n'era un altro simile, eccola qua, questo è sul profilo Facebook. Mio nonno materno fu rinchiuso a Ventotene con Sandro Pertini, ma se la cavò perché ancora minorenne e per un lieve malanno fu rilasciato. In seguito visse un po' clandestino fino a quando decise di emigrare in Svizzera per non aderire al fascismo. Tornato per la resistenza, aderì alle Fiamme Verdi come Cremona. Poi visse la classica vita dell'emigrante, muratore tra Torino, Germania, Milano, per far studiare e far vivere bene i suoi figli. Mi sembra che ci siano arrivati molti messaggi di persone che hanno condiviso qualcosa con Sandro Pertini, un po' come accade però per le case, per cui ci sono le case con affisse, in qualsiasi posto in Italia c'è una casa con affissa una targa che dice Garibaldi dormì in questa casa, più o meno. 349-238-6666, mi chiedono come si scrive Guillet. si scrive Guillette, Genova, Udine, Imola, Livorno, Livorno, Empoli, Torino. E a questo proposito, Tiziano o Margherita, hanno trovato una testimonianza di Montanelli che scriveva di lui: se invece dell'Italia Guillet avesse avuto alle spalle l'impero inglese, sarebbe diventato un secondo Lawrence d'Arabia. È invece soltanto un generale, sia pure decorato di medaglia d'oro. Ora vive in Irlanda, perché lì può continuare ad allevare i cavalli, a quasi 90 anni, e montarli. Quando cade e si rompe qualche altro osso, non ne ha più uno sano, mi telefona. Questa è la testimonianza di Montanelli riguardo appunto a Lawrence d'Arabia italiano, o il comandante diavolo. 349-238-6666, c'erano altri, sono un sacco di messaggi, tutti molto belli. Alessandro Porro, 1908, durante la seconda guerra mondiale nascose due soldati alleati dietro un quadro in casa. In una Lombardia occupata ospitò quello che divenne lo zio Pupi, scultore ebreo battezzato cattolico, che alla fine della guerra sposò la zia Anna, la sorella del nonno, e poi trovava l'acqua sottoterra. Questo non ho capito, cioè trovava pure l'acqua, era un rabdomante, fortunatamente c'è Bonini di là. Ancora, mio nonno tornò vivo da un campo di prigionia in Germania, pesava 39 kg. E poi questo è fantastico: mio nonno ha liberato il mondo dal nazismo combattendo tutta la guerra dalle porte di Mosca ai muri del Reichstag di Berlino a piedi per 4 anni, slava da San Donà di Piave. Ma Slava è un nome, è un tipico nome, esatto, è un tipico nome di San Donà di Piave, mi sembra di capire. 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radio24.it. Vi ringrazio anche per le foto che ogni tanto mi mandate e postate sul profilo Facebook del programma. Questa è una cosa che in particolar modo a Bonini piace molto, quando qualcuno di voi racconta qualcosa di suo, oltre che attraverso un racconto, anche con una fotografia, magari qualcosa che lo riguarda da vicino, una foto di quando era piccolo, in questo caso magari se ce l'avete una foto del vostro nonno. Matteo Caccia, io sono qui, è il profilo Facebook del programma. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile il programma di oggi, che sono Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina e Federico Bernocchi. L'ultimo messaggio, e il migliore forse di oggi, è quello di Paolo, che dice: mio nonno ha avuto l'onore delle armi ad El Alamein, adesso è sdraiato qui di fianco e dorme sul divano. Lasciamolo dormire. Allora, la storia di oggi era la storia di Silvia e parlava di anziani eroi. Quella di domani è la storia di Mariella e parla di bambini eroi. Era un posto tetro, pieno di case diroccate. Nella zona dietro ai capannoni, un vicolo cieco che andava a sbattere contro il muro di cinta di un giardino, dal quale scendeva una cascata di glicini. Ci andavamo pieni di una paura che dovevamo sconfiggere e di una curiosità che ci avrebbe portati anche in cima al mondo. Eravamo spaventati da quel luogo cadente, da quel mondo dentro il quale eravamo entrati senza aver chiesto il permesso a nessuno, spingendoci più avanti, ogni giorno di più.